Pronto! Ciao a tutti, sono Arclele. Dunque, come sono entrato dentro Havana? E attraverso un percorso abbastanza lungo, era più o meno nel 96-97, vi ho ricevuto in regalo il primo abbonamento a internet, e allora diciamo, era un po' diverso da come la conosciamo oggi, per cui una delle cose che insomma mi rimanevano abbastanza difficili era sapere cosa andare in giro a cercare. Non c'era ancora Google, non c'erano ancora i motori di ricerca che conosciamo oggi e soprattutto io ero molto meno esperto. Così mi sono comprato un paio di libri, in particolare Nubi all'orizzonte, diritto alla comunicazione nello scenario di fine millennio, iniziativa nazionale in difesa delle telematiche amatoriali a cura di Strano Network. Questo è stato uno dei due libri. L'altro è stato Hot Web, guida ai siti alternativi e radicali su internet. Quindi partendo con questi due testi ho incominciato a girovagare per internet e gira che ti rigira sono approdato alla comunità di Hack Meeting, alla lista, più o meno penso nel 97, sicuramente insomma nel 98, quando è partita tutta la preparazione per l'Hack Meeting, il primo di Firenze, io c'ero e ho partecipato direttamente e attivamente all'organizzazione. E in particolare allora mi occupavo di accessibilità, per cui il sito di Firenze, ma anche quello di Milano e di Roma dopo, hanno avuto sempre più delle versioni accessibili. Quello di Firenze in particolare ha avuto tre versioni, ASCII Art e da una parte, poi l'altro era TXT, assolutamente accessibile, e poi c'era la versione quella diciamo generale, insomma, con grafica e quant'altro. E durante l'Hack Meeting di Roma ho avuto modo di conoscere tante delle persone che avevo tra virgolette conosciuto in lista, e in particolare di romani ho conosciuto Graffio, conosciuto Arturo e Luca, c'erano Starrick, Anarchia e insomma un po' di altre persone romani. E tornato a Roma ho cominciato a frequentare il Forte per via della censura della rete civica romana e ho fatto parte insomma della mobilitazione che ci fu in contrapposizione. E da lì poi ho cominciato a frequentare Havana e così diciamo negli Hack Meeting di Milano e in quello di Roma ho avuto modo di approfondire insomma maggiormente le conoscenze e le amicizie. In particolare in quello di Roma mi ricordo di Magone, vedo che faceva quella cosa bellissima che lui si ricorda bene, che stava giù nel primo tunnel appena scesi, lui sa di cosa parlo. E niente, dopo l'Hack Meeting a Roma la mia presenza in Travana è diventata assolutamente stabile. In quegli anni è partito il JetNet, che era un progetto per me assolutamente bello e interessante. Ancora oggi quando ci penso lo reputo un progetto veramente, veramente, non so se ben realizzato, ma sicuramente ben pensato, perché partiva dalla semplice telnettata su un server Unix e arrivava fino all'ecologia digitale, lungo tutto un percorso di liberazione dall'uso del software proprietario e attraverso diffusione del software libero, di GNU Linux, di tutti gli altri software open e free che c'erano a disposizione in quegli anni. E dentro Havana, oltre al JetNet, mi ricordo con un po' di confusione le varie riunioni, perché diciamo non era facile rimanere molto lucidi durante le riunioni in Havana, soprattutto a un certo punto. Mi ricordo però queste fantastiche riunioni in cui decidevamo di fare delle cose e poi queste cose si realizzavano anche alcune volte. E mi ricordo anche però, diciamo più vicino a me nel tempo, la fase finale, quella in cui il gruppo iniziale di cui ho fatto parte di Havana si è un po' sciolto, e me lo ricordo perché più o meno insomma sono rimasto fino alla fine da solo lì a cercare di tenere in piedi la baracca, insomma occupandomi come un veliero di pirati che va a fondo. L'ultimo atto che ho fatto è stato quello di migrare i servizi presso, che prima erano interni sul server interni al forte di migrarli presso i fratelli, insomma i compagni di autistici inventati. Questa è stata più o meno l'ultima cosa, dopodiché più o meno il silenzio fino a quando non ho visto riapparire nuove persone, la lista rianimarsi, e sono stato molto contento. Sono stato molto contento di due cose diverse. Sono stato molto contento sia per il fatto che i nuovi sono entrati e si sono subito ambientati, sia del fatto che i vecchi, di cui io faccio parte, insomma, non si sono messi a fare i vecchi come al solito, ma hanno continuato a rimanere in disparte, a vedere i nuovi che entravano e si organizzavano come meglio credevano i loro spazi. Quindi, bravi a tutti e due i gruppi, quelli che c'erano e quelli che sono entrati. Ma ora i gettoni stanno per finire. Ciao!